Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi a voi, buongiorno, benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia. Oggi abbiamo Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire che cosa abbiamo preparato per voi. La vita aiuta a sognare o i sogni aiutano a vivere? Parte dall'America la lotta al sovrappeso infantile. Giornata mondiale dell'epatite. Vietato abbassare la guardia. La pensate come Cenerentola, i sogni sono desideri? Io devo dire, credo in parte di sì, ma oggi avremo modo di parlarne, faremo proprio un viaggio in quel misterioso paese che è il mondo dei sogni, nel quale ogni notte, volenti o nolenti, ci avventuriamo. Insieme a noi abbiamo il professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Professore, bentornato. Grazie, buongiorno. Qui in studio con me ho il dottor Francesco Giglio, buongiorno a lei. Buongiorno. Psicoanalista Jonas, membro ALI e docente IRPA, che è l'Istituto di Ricerca in Psicoanalisi Applicata. Allora, ciascuno di noi quando sogna si chiede come mai abbia sognato proprio quella cosa e perché. E non è raro, infatti, che un amico ci racconti il suo sogno e ci dica, secondo te, che cosa vorrà dire? Sicuramente lo chiederanno anche a lei, dottor Giglio. Allora, io vorrei chiedere ai miei ospiti di imprestarci un po' della loro esperienza, di fornirci qualche spunto, qualche strumento per capire qualcosa di più del mondo dei sogni. Professor Ferini Strambi, ci dica su che cosa dobbiamo focalizzarci in modo che noi le forniamo tutto l'occorrente per darle l'opportunità nel corso della trasmissione di aiutarci a capire di più. Ma volevo fare due o tre considerazioni proprio velocissime e generali. Allora, la prima mi è venuta in mente quando lei ha fatto l'introduzione, perché a volte ci sono dei soggetti, pazienti ma anche non pazienti, che dicono, ecco, ma io non sogno mai. Ecco, allora, la cosa da ricordare fondamentale è questa: tutti noi sogniamo perché tutti noi nel corso della notte abbiamo quella fase particolare di sonno che è il sonno REM, quello in cui praticamente muoviamo gli occhi come se fossimo svegli e tuttavia il nostro corpo è completamente paralizzato e il nostro cervello lavora tantissimo, il metabolismo del nostro cervello è paragonabile al metabolismo che si ha durante la veglia. Tant'è vero che il sonno REM si chiama sonno paradosso, proprio perché non ha proprio le caratteristiche del sonno vero e proprio. Ecco, tutti noi abbiamo almeno un'ora e mezza di sonno REM nel corso della notte e quindi tutti noi inevitabilmente sogniamo. Però poi non ricordiamo questi sogni molto spesso, perché? Perché anche se il sonno REM è molto presente nell'ultima parte della notte e quindi noi sogniamo soprattutto nell'ultima parte della notte, basta fare 5 minuti, 10 minuti di sonno non REM alla fine del nostro sonno per cancellare completamente il ricordo del sogno. Ecco, l'altra cosa, considerazione che volevo fare, è che la nostra mente non lavora solo ed esclusivamente durante il sonno REM. Durante il sonno REM noi facciamo il sogno nel senso che creiamo delle situazioni a volte proprio con un contenuto bizzarro, molto strano, perché facciamo mescoliamo delle esperienze anche che appartengono a situazioni e a condizioni completamente diverse. Quindi la bizzarria del sogno che avviene durante il sonno REM è una caratteristica fondamentale. Ma noi comunque abbiamo un'attività mentale anche al di fuori del sonno REM. E quindi non è quella un sogno, è comunque un'attività mentale che è molto più concreta, molto più vicina a quella che è la vita di tutti i giorni, a quella che è la nostra vita reale, senza quelle caratteristiche appunto di cose molto bizzarre e strane che invece caratterizzano il nostro sogno. Dottor Giglio, noi sogniamo tutti, come ci ha ricordato il professor Ferini Strambi, ma lei come psicanalista di quali elementi ha bisogno per aiutarci a, non dico interpretare, nel senso non vogliamo dare i numeri, no? Ce lo auguriamo tutti, no? Lo zio morto che ci suggerisce i numeri da giocare all'otto, ma questo poi non succede. Lei come psicanalista di quali dettagli ha bisogno per aiutarci a capirne di più? Ma naturalmente siamo molto lontani come psicoanalisti dalla interpretazione magica dei numeri. Mi permetto anch'io di introdurre la questione con dei brevi riferimenti generali, proprio per introdurci più direttamente alla questione in sé. Allora, la prima cosa da dire è che il sogno è il custode del sonno dal nostro punto di vista, nel senso che il sogno è ciò che fa sì che il sonno non sia perturbato. E dunque in qualche modo contrasta sia gli stimoli che arrivano dall'esterno, la sveglia che a volte sì, viene integrata nel sogno, per esempio, sia stimoli che prevengono dal mondo interno. Il secondo punto importante da sottolineare è che il sogno è un prodotto psichico, nel senso che naturalmente c'è una componente somatica, quella a cui alludeva il professore Ferini Strambi, ma è un prodotto psichico nel senso che ha un significato, ha un senso e la sua funzione non si esaurisce nell'ambito somatico. Noi diciamo una formazione di compromesso sostanzialmente, nel senso che fa sì che da una parte si presenti in una forma accettabile dalle istanze della coscienza, sì, cioè dal nostro conscio, dall'altra parte risponde a un'energia che proviene da desideri che non sono tollerabili. Insomma, Cenerentola in fondo ci aveva visto lungo. Beh, in effetti Freud sostiene proprio questo, che il sogno è la realizzazione di un desiderio. Ha visto, sono d'accordo, insomma, vanno a braccetto Cenerentola e Freud, bella coppia. 800-24-0024, se avete dei sogni da raccontare, se volete capirne qualcosa di più, se avete incubi, sogni ricorrenti, se avete notato delle relazioni tra i vostri sogni e la vostra vita ad occhi aperti, se anche qualche sogno si è realizzato, chiamateci 824 0024 e i messaggi come sempre al 349 238 6666. La buona novella. Before coming to the White House, the president and I lived lives like most families. Two working parents, I was busy trying to maintain Quella che state sentendo è la voce della First Lady americana Michelle Obama, che ha lanciato il nuovo piano nazionale anti-obesità, Let's Move, diamoci una mossa, che coinvolgerà tutti i bambini degli Stati Uniti. Obiettivo? Insegnare loro a mangiare verdure e a fare attività sportiva. Ma ciò che colpisce del documento statunitense è che la soluzione vuole essere trovata in tempi brevissimi. E allora i bambini americani dovranno dire addio agli hamburger e dire benvenute alle carote? Noi ne parliamo oggi con Alberto Pellai, qua in veste di ricercatore all'Università di Milano in igiene e medicina preventiva. Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Anzi, professor Pellai, buongiorno. Allora, lei ha letto, professor Pellai, in anteprima questo per noi, questa il report che adesso è disponibile per tutti sul sito appunto letsmove.gov, e vorrei dirti che una cosa che colpisce veramente in modo significativo è questo concetto di risolvere il problema entro una generazione, tanto che vengono forniti nel report tabelle molto chiare, partendo dal picco massimo di obesità che si è avuto nel 2007-2008, pari a 19,6%, per cui un bambino su 5 è clinicamente diagnosticato come obeso, attenzione, non sovrappeso. La tabella di marcia di questo piano di rivoluzione delle abitudini alimentari dei bambini prevede 2,5% di riduzione di obesità in 5 anni, 5% di riduzione di obesità in 10 anni, 15% di riduzione in 20 anni. E questo significa che nel 2030 gli Stati Uniti, in base a questo piano, dovrebbero avere solo il 5% di bambini diagnosticati come obesi rispetto all'attuale 20%, che sarebbe veramente Secondo un risultato Secondo te ce la faranno? Ma guarda, il piano è veramente sistematico, punta a 6 aree di lavoro molto interessanti, provo a dirtele velocemente. La prima è l'azione sulla prima fascia di vita dei bambini, con attenzione a moltissimi particolari, e qua sottolineo il fatto che molto chiaramente dice che tutte le comunità devono affermare coi genitori il principio per cui, per esempio, fino a 2 anni i bambini dovrebbero vivere a TV spenta, e viene ripresa proprio un'indicazione della Academy of Pediatrics statunitense, e dopo si danno chiare limitazioni a non più di 1 o 2 ore al giorno. per i bambini superiori in età. Poi c'è potenziamento delle competenze educative di genitori ed educatori. Un punto che credo importantissimo è limitazioni molto forti per la pubblicità che interrompe i programmi rivolti ai bambini, per cui dovrebbe proprio rivoluzionarsi il modo con cui le multinazionali alimentari fanno pubblicità nei programmi per i bambini, e si prevede entro 5 anni che devono essere pubblicizzati molto di più i cibi sani rispetto ai cibi non sani. Il punto del cibo sano disponibile a scuola, secondo me, è un elemento proprio che ho lì letto per la prima volta, cioè accesso a cibo sano e sostenibile dal punto di vista economico in tutte le comunità statunitensi viene proprio data questa immagine. Nella geografia degli Stati Uniti ci sono delle zone chiamate food deserts, cioè deserti dove il cibo sano non è mai accessibile, perché sono magari comunità rurali molto lontane da punti in cui invece il cibo è distribuito oppure venduto, e quindi qua si inventano proprio il ritorno a cose che magari vedevano i nostri nonni, cioè camioncini che quotidianamente portano cibo sano e fresco in comunità che sono così lontane da centri dove invece il cibo può essere appunto acquisito e reso accessibile. E infine, naturalmente, politica a sostegno dell'attività motoria nella vita dei bambini, con rivoluzione per esempio delle ricreazioni di metà mattina che devono diventare fisicamente attive, sì, e piene anche di attività prosociali, e anche loro si pongono adesso il problema di far arrivare i bambini a scuola a piedi o in bicicletta, rivoluzionando un po' l'attuale struttura urbanistica delle città. Senti, però anche in Italia si sta muovendo qualche cosa. Sì, ci sono proprio stati dei cambiamenti negli ultimi anni, mi preme sottolineare per esempio quello che ha fatto la regione Lombardia, poi imitata da altre regioni, che ha davvero un po' rivoluzionato il concetto di merenda di metà mattina, rendendo molto accessibile, distribuendo a tutti i bambini per esempio la frutta e anche modificando i contenuti delle macchine che distribuiscono cibi per esempio nelle scuole superiori, per cui i ragazzini possono con le loro monete avere accesso non solo a snack che sono nutrizionalmente poco validi, ma anche a cibi molto più sani. Allora chiudiamo, Alberto, con 3 indicazioni per le mamme all'ascolto che vogliono occuparsi in modo sano dei loro figli. Ma direi, riprendiamo un aspetto, proprio il concetto di screen time. Questa è una cosa che sta nelle vostre mani educative, proprio quindi meno attività mediate da schermo per i vostri bambini, di conseguenza molto più attività fisica. Cercate il parchetto più vicino a casa nostra, il report lo dice molto chiaro, esatto, e non sempre il cibo sano è cibo che ai bambini non piace. Non dimenticatevi la regola dei nutrizionisti: ci devono essere 10 rifiuti consecutivi di un cibo da parte di un bambino prima di dire che quello è veramente un cibo sgradito al bambino, quindi dovete fare più tentativi. Grazie allora ad Alberto Pellai. Cosa hai sognato stanotte? Sai che io lo so che non patatine! Sono proprio uno che i sogni non se li ricorda, perché so che è sbagliato dire non sogno mai. Io sogno, ma al mattino è scomparso tutto. Allora, so che tu ci seguirai, magari ti riusciremo. Professor Ferini Strambi, ma se uno si impegna, riesce in qualche modo a non farsi cancellare, no, dalla fase REM? Ma sicuramente se uno se si stimola in un soggetto l'interesse per i sogni, si ha una maggiore probabilità che il soggetto ricordi i sogni. Il problema è proprio questo, bisognerebbe proprio avere una maggiore attitudine proprio così a voler proprio a dar significato ai sogni, a voler ricordare i sogni. E perché questo? Perché faccio un esempio pratico. Sì. Ci sono tantissimi studi che hanno dimostrato che le donne, ad esempio, sognano, ricordano di più i sogni rispetto agli uomini. Ce ne sono diversi studi che hanno dimostrato questo. Ma questo perché? Proprio perché è stato dimostrato che nella donna c'è un maggiore interesse nei confronti del sogno, c'è un'attitudine positiva rispetto ai sogni. Questo poi chiaramente è legato anche ad altri aspetti molto più pratici, nel senso che chi ad esempio tende a svegliarsi frequentemente nell'ultima parte della notte è chiaramente più avvantaggiato e sicuramente ha una maggiore probabilità di ricordarli. Però sicuramente, ecco, c'è questo aspetto che le donne che hanno appunto questo maggiore, che danno più valore ai propri sogni rispetto agli uomini, li ricordano di più. Allora Alberto, impegnati e poi ci racconterai un tuo sogno. Terrò un diario dei sogni sul mio comodino. Magnifico, grazie ad Alberto Pellai. Pronto soccorso. Io mi sono appena svegliato da un sogno, ma non un sogno di quelli tipici. Era quasi come se fossi entrato in un universo alternativo. Sì, un sogno reale. Cioè, tecnicamente sognare è un fenomeno del sonno. Ma ci si può anche divertire un casino nei propri sogni. E di sicuro tutti quanti sanno che divertirsi è il massimo. Sì. E che succedeva nel tuo sogno? Un sacco di persone che parlavano, qualcuno diceva cose assurde. Sembrava quasi uno strano film. Più che altro pontificavano su qualsiasi argomento, con molta intensità. Mi sono svegliato chiedendomi perché avessi sognato questa roba. Quei sogni li puoi controllare. Mm. Tu fai sempre sogni di questo tipo? Oh, sì, li utilizzo sempre al meglio. Ma il trucco è renderti conto che stai sognando fin dall'inizio. Devi essere capace di riconoscerlo. E devi essere capace di chiederti: oh, cavolo, ma è un sogno? Sai, quasi nessuno si fa queste domande, né da sveglio né tantomeno quando dorme. Quello che mi ha fatto rendere conto che stavo sognando è stato il mio orologio digitale. Non riuscivo a leggerlo, come se i circuiti si fossero completamente guastati. Sì, capita abbastanza spesso. Anche le piccole scritte sono molto difficili da leggere, sono molto instabili. Un altro indizio è quando cerchi di regolare l'intensità della luce. Non ci riesci mai. Se ti capita di vedere un interruttore, spingilo e prova a vedere se funziona. È una delle cose che non si possono fare nel sogno lucido. Riprendiamo il passo, dottor Giglio. Le ha fornito sicuramente tanti spunti questo breve estratto dal film Walking Life. Ma uno su tutti, direi, questa questione: puoi controllare i tuoi sogni. E credo che effettivamente qui ci sia un qualcosa di, da un lato impossibile, dall'altro anche poco sensato. Nel senso che il sogno chiaramente risponde, dicevo prima, a una formazione di compromesso. Quindi è un desiderio che cerca un'espressione. Impegnarsi a sognare come se si pensasse, come se si immaginasse, è un qualcosa di... Sì, è una fantasia, nel senso che c'è la questione è come entrare in sintonia col proprio desiderio inconscio, non è colonizzare l'inconscio a favore del conscio. Abbiamo tantissimi messaggi che vi leggerò. Vorrei dare solamente la parola, prima di andare ai mercati, a Luca, che ci chiama da Verbania. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. Ascolti, la mia cosa è un po' complessa perché mi capita fin da quando ero bambino. Sì. Praticamente quando faccio soprattutto tipo i riposi pomeridiani o verso alle prime ore del mattino, sì. E io è come se mi svegliassi, però mi rendo conto che sto dormendo, non riesco, cioè, ho questo senso di che sono paralizzato, non riesco a muovere nessuna parte del corpo. E ovviamente mi vado in uno stato di panico perché mi sento praticamente completamente indifeso. Sì. E questa cosa mi capita parecchie volte nell'arco dell'anno. E, sì. E non so darmi una spiegazione. Vediamo se il professor Ferini Strambi può dare una spiegazione. Certo, questa, la spiegazione c'è ed è molto semplice. Questi sono fenomeni che vengono chiamati paralisi da sonno. Sì. E io personalmente non è bello, no? No, professore? Non è bello. Io personalmente l'ho sperimentata anch'io una volta, fortunatamente una sola volta. Dopo, quando ero studente universitario, stavo seguendo una sperimentazione, sono rimasto sveglio 2 giorni e 2 notti e poi quando sono andato a dormire ho sperimentato proprio questa paralisi da sonno. Cos'è la paralisi da sonno? Sostanzialmente è un risveglio o comunque un addormentamento in fase REM, sì. Il che vuol dire che ci si trova a volte con una dissociazione tra il cervello che è sveglio, sì. E il corpo che è completamente paralizzato, perché durante il sonno REM il nostro corpo è paralizzato, contrariamente a quello che noi potremmo sospettare o pensare, no? Invece noi siamo completamente paralizzati. Queste paralisi da sonno sono dei fenomeni appunto che rappresentano questa o uscita da una fase di sonno REM o un ingresso in una fase di sonno REM dove c'è una dissociazione, quindi cervello e periferia non vanno contemporaneamente. Professore, come si fa a uscire rapidamente? No. Perché mi aspettano i mercati, sennò poi, ma ci torneremo, Luca, da questa se sensazione di disagio. Se Luca contatta il nostro centro, poi gli spieghiamo tutto, perché sono robe frequentissime, non sono assolutamente pericolose, anche se spaventano molto. Allora, 824 0024, tra poco con i vostri sogni, naturalmente dopo i mercati e il meteo. Essere e benessere. Oggi una puntata tutta dedicata ai sogni. Voglio leggervi il messaggio di Sonia. Mio marito ha sognato la morte di tutto ciò che gli è caro, persone e animali domestici compresi. Appena ha realizzato che non li avrebbe più visti, si è svegliata all'improvviso. Si chiede Sonia, in fondo ci vuole tutti morti? E leggo un po' di preoccupazione, dottor Giglia, ma questo messaggio di Sonia mi dà lo spunto per fare una riflessione. Noi di solito, non facendo lo psicanalista, cerchiamo di interpretare i sogni in base al contenuto dei sogni, quindi giustamente la morte, uno pensa di un segno premonitore, oppure come dice Sonia magari ci vuole tutti morti. In realtà voi dite che il significato può essere, cioè un significato manifesto e uno latente, nascosto. Esatto. Ecco, innanzitutto rassicuriamo Sonia, no? Sì, rassicuriamo Sonia senz'altro, nel senso che il sogno, per come appare, per come viene ricordato, rinvia ad altri sogni, c'è un contenuto manifesto appunto che è quello che la coscienza può tollerare in una certa misura, ma quello che sta sotto sono dei contenuti latenti che rinviano a aspetti differenti. Il fatto che qualcuno sogni la morte di qualcun altro non può essere tradotto immediatamente nel significato manifesto, come in nessun sogno ha senso fare questo. Cosa potrebbe essere? Potrebbero essere quale tante cose. Quale bisogno potrebbe nascondere? Per esempio, un uomo che sogni la morte della moglie può significare che teme di perderla, può significare che vuole essere punito perché è molto felice con lei, può significare moltissime cose molto diverse l'uno dall'altro. Quindi una regola generale è non prendere alla lettera il sogno per quel che appare. Ecco. Ecco, non fermatevi all'apparenza, sì, perché il sogno inganna. Sì, vorrei solo ricordare che il meccanismo del sogno implica due parole difficili, ma che chiarisco subito, che sono condensazione e spostamento. Sì. Vale a dire, condensazione, più cose confluiscono in una. Sì. E da pezzi diversi si estrae un tratto comune. Lo spostamento è uno spostamento d'accento usato per camuffare il contenuto importante del sogno. Il tutto poi è soggetto a un lavoro, a un'elaborazione secondaria, come si chiama, che rende il sogno, come dire, passabile per la coscienza. Per questo non bisogna fermarsi al significato manifesto. Quindi stiamo tranquilli e continuiamo a raccontare i nostri sogni all'800 24 00 24. Andiamo da Domenico, che ci chiama da Messina. Domenico, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per lo spazio. Che ha sognato? Sì. Sognatore, se li ricorda i suoi sogni? Sì, ne ho fatto uno giusto stanotte, piuttosto impressionante. Io tempo addietro avevo una casa al mare che era abbastanza proprio vicina. E stanotte ho sognato che a un certo punto vedevo arrivare delle onde enormi e sentivo la gente intorno a me gridare: sta arrivando uno tsunami. Sì. Allora me ne andavo di corsa a casa per avvisare mia madre e mia sorella di tenerci pronti e di scappare. Mi distraevo un attimo, vedevo queste onde sempre più forti, sempre più alte, e a un certo punto vedevo che mia madre si dirigeva verso queste onde, e però poi di improvviso mi distraevo un attimo e vedevo di nuovo l'acqua calma e piatta, molto oleosa, e la gente che stava lì tranquillamente. Allora mi chiedevo, ma allora non c'è lo tsunami se tutti sono tranquilli? Ecco, è stato un sogno piuttosto strano e piuttosto... ed è avvenuto poco prima che mi svegliassi, infatti mi sono svegliato con un senso di ansia, appunto volevo capire quale significato poteva nascondere, visto che il dottore prima diceva che non bisogna fermarsi all'apparenza. Al momento, cioè... Forse un bisogno di rassicurazione, dottor Giglio, che così passiamo poi al professor Ferini Strambi? Per gestire un po' questa ansia, no? Ci sono dei sogni che ci fanno risvegliare e ci provocano veramente un disagio forte. Sì, dottor Giglio. Assolutamente. Un mio paziente aveva addirittura degli attacchi di panico che partivano dal sonno, in una prima battuta, diciamo. La questione è che quando emerge un sogno d'angoscia è perché le difese che proteggono, diciamo, il contenuto conscio dall'inconscio cedono, dunque sì. C'è uno, in qualche modo un emergere, uno straripamento di desiderio inconscio che non è tollerato dal conscio, per questo il sogno fallisce il suo compito, che è e di diventa... custodire il sonno, il soggetto si sveglia all'angoscia. Professor si tratterebbe Ferini... di vedere soggettivamente cos'è questa questione che agita il signore. Insomma. Professore, questa è la lettura dello psicanalista, ma lei, come esperto di medicina del sonno, come può aiutarci a così superare quel disagio che molti dei nostri ascoltatori avvertono, perché dedicheremo una parte, vi tranquillizzo, sui sogni erotici. Mi saranno arrivati almeno 32 messaggi. Parlerete dei sogni erotici, sexy, professor Ferini Strambi, ne parleremo, ma adesso togliamoci un po' il peso dal cuore quando ci svegliamo nel cuore della notte con un sogno brutto, non dico un incubo, ma qualche cosa che ci preoccupa. Che cosa si fa? Ma allora, io una cosa che dico sempre a tutti, ai pazienti ma anche ai non pazienti, è che noi dobbiamo vedere anche la nostra attività onirica e quindi anche il nostro sonno REM, che è la fase in cui questo si esplica, come qualcosa di importante e necessario proprio per il buon funzionamento del nostro organismo e della nostra mente. Cioè, quindi non bisogna preoccuparsi eccessivamente, sapendo che comunque sia il sogno è qualcosa che va a ripescare in quello che è la nostra memoria, mette insieme tante esperienze, tante emozioni, ma dobbiamo vederlo anche positivamente, anche quando facciamo dei sogni diciamo così un po' angosciosi. Prima di passare appunto di andare dallo psicanalista, di cominciare ad analizzare, cioè, dobbiamo comunque pensare che è una parte della nostra comunque attività mentale durante la notte, ed è una parte fondamentale e necessaria. Volevo ricordare soltanto, anche per quanto riguarda il sonno REM è importantissimo, e quindi anche l'attività onirica, l'attività di sogno, per il buon funzionamento della nostra memoria. I bambini sognano tantissimo perché hanno tanto sonno REM, perché il sonno REM è fondamentale soprattutto per quello che è la memoria, quella che noi definiamo memoria implicita, cioè la memoria del saper fare le cose, la memoria di poter saper muovere la mano su una tastiera di un computer senza neanche vedere le lettere, ma saper subito riconoscere qual è la posizione di questi tasti, no? Quindi il sonno REM, comunque anche l'attività onirica, è qualcosa che è importantissimo per il nostro buon funzionamento anche durante il giorno. E quindi, anche se a volte il contenuto del nostro sogno e quindi quello che avviene durante il sonno REM non è qualcosa di piacevole, ripeto, al di là del fatto che poi possiamo utilizzarlo per cercare di capire meglio anche la nostra personalità, però ecco, è comunque qualcosa di positivo, quindi non dobbiamo spaventarci. Mario da Bologna: credo che i sogni siano come la fodera di un guanto. I terapisti hanno il compito di aiutarci a rivoltare il guanto e a mostrarci che può essere utile anche reverse. Sebastiano da Bologna, buongiorno. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, che cosa buongiorno, ha sognato lei? Buongiorno. Ma no, più che sognato, in realtà mi capita abbastanza spesso al momento del risveglio, nel dormiveglia, di immaginare, di sognare un rumore che può essere il campanello della porta piuttosto che una telefonata o l'abbaio di un cane, e puntualmente, come per magia o piccola preveggenza, dopo due o tre secondi effettivamente sentirlo e svegliarmi da quel rumore. È come se ci fosse un parallelismo tra il sogno, l'immaginare, il sentire un rumore nel sogno e poi nella realtà sentirlo veramente e svegliarmi. Lei che interpretazione si è dato, Sebastiano? Quasi un sogno premonitore? Loro non vogliono sentire questa parola. Io la dico. Ma so che gli addetti ai lavori, premonitore, non lo vogliono sentire. Ma in una battuta, dottor Giglio? Ma in una battuta, il tempo nel sogno è spostato, quindi semplicemente qualcosa che si sente dopo può essere collocato prima. Dunque il fatto che uno integri il campanello, il cane, pensando che l'ha immaginato prima, è parte di un meccanismo tipico del sogno, diciamo. Peccato che ci si sveglia. 800-24-00-24, che cosa sognate, di che cosa sono fatti i vostri sogni? C'è una banca dei sogni, ne parliamo tra poco. Essere e benessere. Sì, come vi anticipavo, esiste una banca dei sogni. In linea con noi per parlarcene la professoressa Miranda Occhionero, ricercatore di psicologia generale al Dipartimento di Psicologia all'Università di Bologna. Professoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Voi avete chiuso i sogni, dopo averli studiati, in una banca. Per farne che cosa? Dunque, noi abbiamo costruito una banca appunto allo scopo di raccogliere un gran numero di sogni nel corso di tanti anni di lavoro nel nostro laboratorio di psicofisiologia del sogno. Noi siamo psicofisiologi, cioè noi cerchiamo di studiare i sogni in un ambiente controllato, con una insomma, nel tentativo di fare una ricerca il più possibile scientifica al fine di capire di che cosa sono fatti i sogni. Cioè, quindi bisogna venire a dormire da voi? Bisogna venire a dormire da noi, i nostri soggetti sono in genere studenti, persone giovani, noi selezioniamo i cosiddetti buoni sognatori, cioè persone che hanno la capacità di ricordarsi almeno 2-3 sogni alla settimana, che vengono in un laboratorio in cui c'è ovviamente una camera insonorizzata come una piccola stanza di albergo, con una stanza dei bottoni cosiddetta dove stiamo noi e registriamo l'attività elettroencefalografica, elettrooculografica ed anche altri parametri come frequenza cardiaca, respiratoria se ce n'è bisogno, al fine di svegliare il soggetto in una particolare condizione di sonno, che può essere il sonno REM come anche il sonno non REM, giacché si è visto nel corso di queste ricerche di psicofisiologia che in realtà il nostro cervello non, tra virgolette, non dorme mai. Ce l'ha spiegato il professor Ferini Strambi, esatto, insomma il nostro cervello è un gran laboratore. È presente durante tutto il corso della notte con delle differenze anche sostanziali tra una condizione di sonno e un'altra. E appunto l'oggetto del nostro studio era fare proprio questa fenomenologia, diciamo, dell'attività onirica nelle diverse condizioni di sonno in cui ci troviamo. Sappiamo benissimo che molte persone raccolgono i loro sogni, per esempio c'è un regista, il grande Federico Fellini, ha tenuto un diario onirico in cui aveva raccolto una quantità infinita di suoi sogni, oltre ad averli illustrati, però insomma sono raccolte, come dire, un po' naif, mentre invece il ricercatore ha bisogno di puntualizzare alcuni aspetti molto, molto però specifici. Guardi, professoressa, ci ha dato uno spunto, un suggerimento. Voi li studiate in modo scientifico naturalmente e li mettete nella vostra banca, ma quello di magari fare un piccolo quadernetto dei nostri sogni potrebbe essere uno spunto interessante. Intanto io la saluto e la ringrazio, la lascio alla sua banca. Buona giornata e buoni sogni. Buona giornata. Professor Ferini Strambi, potrebbe essere utile? Ma sì, sicuramente è utile. Quando si cerca di raccogliere i sogni ci sono due sistemi. Uno è quello che ci ha illustrato prima la dottoressa della psicofisiologia di Bologna, che è quello di mettere un soggetto in laboratorio e svegliarlo mentre sta sognando e quindi cercare di... L'altro sistema è quello dei questionari. Allora, quello dei questionari chiaramente consente di valutare tantissima gente. Quello dei risvegli laboratorio, i campioni sono più piccoli, ma c'è un problema sostanziale. Come diceva prima la dottoressa, loro selezionano i soggetti che sono soggetti, magari appunto in genere studenti di psicologia, che sono molto motivati, che sognano già tanto. Certo. Quindi giovani. La valutazione di quei soggetti non consente poi, non permette di fare delle generalizzazioni, perché invece ecco, sarebbe molto interessante invece fare esattamente quel lavoro, ma estenderlo a tutte le fasce di popolazione, quindi a tutte le età e anche diciamo così, considerando anche le possibili differenze in rapporto anche al sesso, cioè quindi sesso maschile e sesso femminile. Senta, a proposito di sesso, professor Ferini Strambi, noi dedicheremo una puntata ai sogni erotici, perché ho visto che è molto richiesta, ma ci sono diverse interpretazioni dei nostri ascoltatori, un desiderio represso, un tabù. Che cosa sono i sogni erotici? Possiamo parlarne, accennarne, poi rimandiamo i nostri ascoltatori ad una puntata ad hoc? Posso soltanto dire una cosa e poi lascio lo spazio al dottor Gigli. Al Gigli, esatto, perché lui sicuramente di questo ne sa più di me. Quindi quello che posso dire io sul piano, diciamo così, di quelli che sono gli studi finora raccolti è che gli elementi di sessualità sono presenti in maniera significativamente maggiore nei sogni degli uomini rispetto ai sogni delle donne. Cioè, quindi sicuramente il tema sessualità è più tipico dell'uomo. E c'è un altro aspetto, questo l'abbiamo studiato noi studiando una patologia particolare, che è il disturbo comportamentale in sonno REM. Questi sono quei soggetti oltre 50 anni che diciamo per un malfunzionamento di una zona del cervello quando sognano, vivono il sogno, cioè mentre normalmente si è paralizzati, questi soggetti invece vivono proprio il sogno, hanno un'attività motoria che esprime quindi chi dorme accanto a loro rischia molto, rischia perché a volte molto questi sogni sono degli aggressivi, degli sganassoni, vede, che avevo Dottor Giglio, rapidamente, per poi tornarci, perché intanto saluto il professor Massimo Colombo, direttore della divisione di gastroenterologia all'Ospedale Maggiore di Milano, Policlinico Università degli Studi. Professor Colombo, buongiorno, sono subito da lei per parlare della giornata mondiale contro le epatiti, ma intanto andiamo sui sogni, di sogni erotici. Sui sogni erotici quel che si può dire è che è un'ulteriore conferma della tesi freudiana dello stretto rapporto fra sogno e desiderio, e su come tendenzialmente si sogna qualcosa che manca, che ci manca. E quindi se noi, il mio compagno mi dice faccio sempre sogni erotici, io come sua partner sono contenta, vuol dire o devo essere scontenta? Mi dica, mi dia una risposta. Dipende da che rapporto avete, da cosa vuole lei dal suo partner. Sicuramente c'è qualcosa che manca sul piano dell'appagamento. C'è qualcosa che manca erotico. E noi ci fermiamo qui perché vedremo poi che cosa metterci. E intanto saluto il professor Ferini Strambi, grazie professor per essere stato con giornata. Noi prossima puntata sogni erotici, dottor Giglio, dobbiamo rivederci perché approfondiremo il tema. Intanto vogliamo parlare con il professor Colombo. Professore, buongiorno dottoressa. Ribuongiorno. Allora, nonostante esista oggi per l'epatite B un vaccino che viene somministrato ai nuovi nati dal 91 e siano ormai chiari e ben conosciute le modalità di trasmissione, le associazioni dei pazienti e il mondo scientifico parlano di emergenza sommersa per l'epatiti. Beh, questo è un concetto che esprime la preoccupazione che un gran numero di persone che sono cronicamente infettate dal virus e che potrebbero trarre molto giovamento da tempestive e appropriate cure, in realtà non vengono identificate. La ragione è purtroppo semplice: queste persone si sono infettate in modo direi impercettibile, sì, in età molto giovanile, con siringhe infette dalla madre o altre procedure a rischio, hanno avuto un decorso totalmente asintomatico dell'infezione e in età molto più avanzata, matura o addirittura in età anziana, sviluppano le complicanze più severe che sono poi la cirrosi che si scompensa o l'epatocarcinoma. Questi 40-50 anni diciamo di incubazione clinica fanno perdere un po' la coscienza, la presa, la percezione dell'importanza di questa infezione malattia, perché noi siamo distratti da altre, certo, tante, da altre cose. Insomma, non è chiaro, non è immediata, almeno per noi non vediamo la relazione causa-effetto, no? Come... per altre condizioni severe come l'HIV, dopo un rapporto sessuale infetto, nel giro di pochi mesi c'è la percezione clinica della malattia e questo colpisce molto sul piano emotivo, l'attenzione è molto focalizzata su queste malattie che rapidamente complicano. Professore, la vita. Ho proprio veramente 30 secondi, mi stanno già sfumando. Io volevo però parlare rapidamente di queste terapie che sono sempre più mirate, ma soprattutto di una rete che esiste in Lombardia e che garantisce quindi un approccio, no, terapeutico uguale per tutti i pazienti. Ci vuole spiegare proprio in 30 secondi in che cosa consiste? Sì, da alcuni anni disponiamo di farmaci semplici da somministrare per via orale che praticamente distruggono l'infezione, ma vanno presi sempre. Il pericolo di questi farmaci è che possono indurre resistenza e quindi questi pazienti che sono diventati più complessi da trattare vengono progressivamente avviati a centri di riferimento, sì, di trattamento adeguati. Noi non possiamo ricevere tutti per ragione di budget e quindi abbiamo deciso di lasciare i pazienti sul territorio lombardo, nel loro ospedale di pertinenza, ma di interagire continuamente ricevendo il loro sangue. Da un centralino di regia, diciamo così. Però per garantire il paziente e il medico curante che la cura è sempre efficace, le resistenze genetiche alla cura non si sono manifestate, così lasciamo in sede i pazienti ma controlliamo l'andamento generale della cura. Professor Colombo, grazie, buona giornata a lei. A lei buona giornata. Buona giornata a voi che ci avete seguito, appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Radio 24, la passione si sente.